A tempo di sport con Claudio Arrigoni. Ultima giornata olimpica con 5 medaglie, si finisce come si era iniziato e questa è sicuramente una bella notizia. Finora sono 8 ori, 8 argenti, 11 bronzi e siamo a 3 medaglie di bronzo per oggi. Pallanuoto in finale che è appena cominciato, già avanti, ma andremo a sentire fra pochissimo con Dario Ricci quello che sta accadendo. 800 24 00 24 il nostro numero verde anche oggi. Comunque tante polemiche sia alle Olimpiadi, perché fra poco lo sentiremo appunto Roberto Camarelle, che è stato sconfitto, ha vinto l'argento, è stato sconfitto dal britannico Joshua, ma ripeto, con tante discussioni e polemiche. E poi anche nel calcio, abbiamo sentito nel radiogiornale quello che ha detto Zeman, ancora continuano le polemiche invece che riguardano Juventus-Napoli. I vostri messaggi SMS al 349-238-6666. Claudio Arrigoni per Radio 24 con Franco Piantanida in redazione, Peter Bescapè in regia. Fra pochissimo andremo da Dario Ricci che ci deve aggiornare su quello che sta accadendo alla finale fra Italia e Croazia di pallanuoto. Ripeto, 3 medaglie oggi di bronzo. Abbiamo cominciato con il volley, 24esima, era la 24esima medaglia in questi giochi. L'Italia che poi in premiazione si è presentata con la maglia di Bovolenta. E poi ancora la ginnastica ritmica, anche qui una medaglia di bronzo per le farfalle italiane: Elisa Bianchi, Elisa Santoni, Romina Laurito, Angelica Savrayuk, Marta Pagnini e Andrea Stefanescu. E il bronzo nella mountain bike con Marco Aurelio Fontana. E poi vi ripeto l'argento con davvero tante polemiche da parte del team italiano, che ha fatto anche ricorso che non dovrebbe venire accettato. Verdetto di parità, poi la vittoria assegnata al britannico Joshua. Se Dario Ricci è collegato, andiamo a sentirlo. Dario, eccoci, sei alla piscina olimpica. Sì, assolutamente sì. Finale, mancano 4 minuti e 7 secondi alla fine del primo quarto di gioco. Italia in vantaggio per 1-0 grazie al gol dopo 38 secondi di Gallo, il nostro mancino Valentino Gallo ha trafisso Pavic con un bel sinistro in superiorità numerica per l'espulsione di Buric. Croati che stanno tentando la reazione, un bel paio, anzi questa è la terza conclusione da parte di Jokovic, ancora insuperabile Tempesti che sta continuando oggi così come ha giocato per tutto il torneo, praticamente insuperabile, anche se questa partita è ancora molto lunga. Tra l'altro se affrontiamo la Croazia, che è l'unica squadra imbattuta di tutto il torneo, ci ha battuto anche nel girone eliminatorio per 11-6 ed è anche la miglior difesa, appena 36 gol concessi, la seconda miglior difesa è proprio la nostra con 52 reti concesse agli avversari, Claudio. Eh sì, in particolare proprio per Tempesti, il nostro portiere, l'emblema della pallanuoto italiana, non soltanto per questi giochi. Dario, avrai avuto modo anche di seguire naturalmente la finale di Roberto Camarelle. Assolutamente sì, e devo dire che l'impressione è stata comunque di un Camarelle che nella seconda parte del match, come anche era inevitabile, abbia in qualche modo avuto anche un calo fisico nei confronti di questo Joshua, che è sicuramente atleta ben messo fisicamente. È apparso però anche piuttosto evidente la superiorità tecnica di Roberto, in particolare nella prima ripresa e mezza, nelle prime due. Ci ha fatto subito pensare male il vederlo scuotere la testa in attesa del verdetto. Probabilmente anche lui era consapevole di dover in qualche modo avere, tanto altra grande parata di Tempesti, di dover avere un vantaggio più netto per mettere al sicuro l'eventuale vittoria, e poi c'è stato questo verdetto che diciamo, molti hanno gridato allo scandalo, io rimango comunque fortemente perplesso. Se poi la Damiani e il team azzurro hanno deciso di presentare ricorso, evidentemente ce n'erano quantomeno gli estremi, Claudio. Ecco, infatti il ricorso, ci arriva un messaggio proprio chiedendoci se c'è qualche minima speranza, ci chiede Andrea da Padova al 349-238-6666, notizia proprio di questo momento, respinto il ricorso della squadra italiana e quindi l'oro che rimane a Joshua è un argento, è sempre una grande medaglia, però questo lascia molto molto amaro in bocca, ripeto, parità 18-18 e poi l'argento che è stato assegnato a Cammarelli la vittoria a Joshua. Ma è successo qualcosa ancora in piscina, Dario? Sì, direi sì, è un'altra buona notizia perché è arrivato il 2-0 a 2 minuti e 55 secondi dalla fine del primo quarto per gli azzurri, con Maurizio Pellegugo leader e mente del sette bello, o meglio braccio esecutore del pensiero di Alessandro Campagna in panchina. Ebbene, un bellissimo destro dai 5 metri che non ha lasciato scampo a Pavic. Siamo sul 2-0, devo dire un 2-0 costruito anche grazie soprattutto alle prodezze di Tempesti. Eccolo per il tiro ed è il contro alto, peccato perché c'è stato il tiro di Giulio Pavic e Tempesti ha parato anche questa, poi la palla però è rimbalzata sulla entrata, è passato la linea di porta. Sì, devo dire finora un Tempesti insuperabile, una difesa che sta chiudendo bene, ma chiaramente il nostro portiere, che neanche il regista, è stato finora grande protagonista, e questo gol di Buliu Basic si è aperta una contesa che guai a considerare in qualche modo finita prima dell'ultimo secondo. Staremo naturalmente in contatto con te, Dario, prima di lasciarti naturalmente un commento anche non solo sulle altre due medaglie, alle tre medaglie di bronzo che sono arrivate, ma in particolare su questa ultima giornata che è cominciata come la prima, un'Olimpiade che forse molti non si aspettavano l'Italia potesse concludere fra le prime 10 del medagliere, così ormai pare che debba accadere, quindi una buona Olimpiade, Dario. Direi proprio di sì, nel senso che adesso, come sempre, va di modo a distinguere tra titoli sul campo e titoli virtuali, lo facciamo anche noi a livello sì, esatto. Nel senso che andremo a conquistare 28 medaglie, così come sul campo erano state 28 quelle di Pechino, poi c'era stata la squalifica di Rebellin per doping nel ciclismo, l'argento sommato, e quindi il totale era di 27 medaglie, quindi arriviamo a 28, dovremo mantenerci appunto nella top 10 e quantomeno in un momento così difficile in generale, anche per sia per l'Europa dello sport sia anche in particolare per l'Europa economica, mantenersi in questa top 10 è già un risultato eccezionale, e soprattutto torniamo a fare buoni risultati con le squadre che erano mancate a Pechino, tranne la pallavolo maschile che appunto ha giocato al quarto posto tra molte difficoltà. Quantomeno torniamo su due podi importanti maschili, cioè pallavolo e pallanuoto, e quindi questo è sicuramente un risultato che pesa. E poi ci sono sempre le medaglie che non ti aspetti, vedi quella di Fontana nella mountain bike, che qua ha sorpreso un po' tutti, ecco, diciamo, un po' ti sapevamo che c'era anche la gara di mountain bike, lo ammettiamo. Assolutamente, ne parleremo anche con un grande ospite, perché siamo felici di ospitare anche oggi uno dei simboli di questa Olimpiade londinese qui a Radio 24. Fra poco intanto cominciano ad arrivare anche gli sms al 349-238-6666 che non riguardano soltanto l'Olimpiade, ma come era prevedibile anche tutte queste polemiche sul calcio. Ne parleremo fra pochissimo anche delle parole di Zeman, come Andrea ci scrive: non capisco Zeman, che solitamente trovo molto arguto e divertente, quando parla di Juve diventa un disco rotto. L'ultima su Conte poi non depone a favore né della signorilità né dell'intelligenza. Zeman, che appunto ha affermato sostanzialmente che Conte, essendo stato fermato per così tanti mesi, non deve poter continuare ad allenare finché è squalificato. Poi andremo a parlarne ancora, come parleremo ancora di Juve-Napoli, un altro sms che fa conto probabilmente di alcune affermazioni che avevo fatto ieri. Cioè, se il giocatore del Napoli era avanti a Vucinic, il pallone è schizzato via, toccato dall'Azzurro, mi spiega come era rigore. Si riferisce al rigore assegnato alla Juventus. Io l'ho vista diversamente, ma il calcio è bello anche per questo. Mi sembrava un rigore abbastanza netto, abbastanza palese. Torneremo a parlarne, ma prima vi faccio ascoltare alcune voci olimpiche. Clemente Russo, argento ieri nel pugilato. Dopo 4 anni di duro lavoro, venivo da un altro tipo di preparazione, da una preparazione da professionista, quindi non era difficile affrontare i dilettanti, sono molto più rapidi. Ho avuto solo 3 mesi per fare la preparazione e quindi sono super contento di questo risultato. Significa che dovrò aspettare ancora 4 anni per prendere l'oro. No, non mi sono ancora rivisto, ma nemmeno mi vedrò da adesso una 15 giorni, perché comunque voglio rimanere con questo bel pensiero, che poi comunque io sono molto critico su me stesso. Comincio a vedere, poi ricomincio a pensare subito al pugilato, adesso devo staccare la spina. No, rimpianti no, perché alla fine anche la finale oggi ho perso di 3 punti, ho dato veramente il massimo. Forse potevo fare una tattica diversa, però la tattica si può sbagliare anche, ma ho dato il massimo anche sulla tattica sbagliata. E andiamo a sentire anche Berruto sul suo bronzo. Sensazione e l'emozione di un grandissimo orgoglio di aver dimostrato a noi stessi, alle persone che vogliono bene a questa squadra, e fatemelo dire anche un po' al nostro paese, che non è importante quando si cade, non è soprattutto importante quando si cade di fronte a un avversario che è stato più bravo di te, e il modo in cui ti rialzi che conta. E questa medaglia è il tributo a questa capacità di rialzarsi che abbiamo avuto anche in questo torneo, in altre occasioni, e oggi l'abbiamo fatto nel momento più bello e importante. Io mi auguro che il messaggio sia questo: abbiamo fatto una cosa gigantesca, probabilmente abbiamo fatto il massimo di quello che era possibile fare. Però a me piace pensare a questa abitudine di tornare sul podio e naturalmente di iniziare a provare a scalare i gradini di questo podio e di attaccare quello più alto. Però questo terzo posto oggi è un gradino altissimo ed è un altro passo in avanti di questa squadra. A tempo di sport. Calcio, calcio, e calcio vuol dire polemiche. Alberto Cerruti, prima firma della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, abbiamo cominciato la stagione con non soltanto una bella partita, perché poi è stata davvero una bella partita Juve-Napoli, ma con le solite polemiche, i soliti problemi arbitrali, eccetera, eccetera, Alberto. Sì, purtroppo è così, siamo arrivati al paradosso di una partita che è cominciata senza un allenatore squalificato, Conte, è finita senza l'altro allenatore squalificato in campo, Mazzarri, quindi un piccolo grande record del mondo nello stadio olimpico, nei giorni dell'Olimpiade. Il nostro calcio ha fatto una A proposito figura. Di Olimpiade, Alberto, permetterai che ci fermeremo ogni tanto, perché ci sono gli aggiornamenti naturalmente che arrivano dal finale di pallanuoto. Dario Ricci da Londra. 5 minuti e 43 alla fine del secondo periodo, all'intervallo lungo la Croazia ha siglato pochi istanti fa il 2-2 con Jokovic in superiorità numerica, a sinistro da non più di 1,5 metri, Tempesti non ha potuto nulla, e allora si ricomincia da zero praticamente, 2-2, rimonta completata quella dei croati, e attacco italiano che fa fatica. Prima del gol c'era stata la conclusione di Felugo che era schizzato sull'acqua e poi alta sulla traversa, ma è inevitabile appunto vista la compattezza della difesa dei biancorossi. 2-2 quando mancano 5 minuti e 20 alla fine del secondo periodo di gioco. Eccoci, scusa Alberto naturalmente, ma questi aggiornamenti sono essenziali per seguire quella Certamente. Che è una possibile medaglia d'oro per l'Italia. Dicevi sì, si è cominciato fra le polemiche e anche polemiche non soltanto per il calcio giocato ma anche per il calcio parlato, ma ci arriveremo Alberto. Sì, dicevo che è stata una brutta immagine del calcio italiano, ancora più brutta perché abbiamo esportato la nostra immagine in Cina, in tutto il mondo. Se questo doveva essere il biglietto da visita della nuova stagione, c'è da preoccuparsi. Eh sì, c'è da preoccuparsi. 800 24 00 24 è il nostro numero verde. Per i vostri messaggi SMS invece 349 238 6666. Uno di questi SMS dice: se c'è uno scandalo ieri è stato il Napoli, che ha disertato la premiazione all'estero. Si lamentano di un rigore quando ne hanno avuto uno nella finale di Roma, e se poi i suoi giocatori sono degli scorretti, vabbè, questo naturalmente è un tifoso juventino, Massimo, però effettivamente, come scrive oggi Luigi Garlando nel suo commento proprio sulla Gazzetta dello Sport, una ritirata che offende tutto lo sport, ed è un peccato perché è stata una bella partita, Alberto. Sì, la partita ha dimostrato che la Juventus è sempre la squadra più forte in Italia, ma anche che Napoli può tenere le teste, può essere una serie antagonista per lo scudetto. E ci sono stati sprazzi di bel gioco, dei bellissimi gol. Abbiamo visto il debutto di Asamoah con la maglia della Juventus, molto confortante, la grande prestazione di Pandev prima di essere espulso, quella di Cavani, e quindi ancora più grosso il rammarico per come si è conclusa questa partita, che poteva essere bella, invece è stata guastata dal finale. Però che ha dato delle indicazioni, come già hai fatto notare, Juventus che deve ancora operare sul mercato. Soprattutto in prospettiva europea, credo che la Juventus in Italia sia ovviamente la squadra da battere, però in campo internazionale è una squadra che non può competere con le migliori, e quindi la Juventus deve cercare di rinforzarsi in attacco, deve cercare anche un difensore, perché né Lucio né Bonucci mi convincono. Non è questione di top player, è questione di giocatori forti, validi. Abbiamo visto Asamoah, molto sottovalutato da tutti, sì, però è un grande giocatore. Vidal deve confermare la stagione scorsa, Isla sarà un giocatore importante. È una Juventus che è sulla buona strada, soprattutto pensando a Milan e Inter, però deve ancora fare un salto in alto. E poi qua c'è questo Napoli che ha dimostrato di aver un po' superato anche la cessione di quello che era il suo giocatore faro. Poi, fra l'altro, Cavani è veramente impressionante, anche perché veniva da un periodo senza riposo, quindi sicuramente l'impressione che ha fatto è stata super positiva. Sì, Cavani ha dimostrato non soltanto grande carattere, perché un altro al suo posto sarebbe andato in vacanza qualche giorno, nessuno gli avrebbe detto nulla, ma soprattutto ha dimostrato di essere un giocatore completo, perché ha segnato, lo abbiamo visto nei recuperi, addirittura sulla linea di fondo vicino a De Santis, e quindi un campione vero. Io credo che il Napoli abbia le qualità per essere la prima sfidante della Juventus, a patto che tenga i nervi calmi, perché proprio la partita di ieri ha dimostrato che il punto debole di questa squadra, vorrei dire della società, perché coinvolge anche De Laurentiis, il punto debole sono i nervi, troppo scoperti. Addirittura pensi che il Napoli possa essere la sfidante della Juventus prima di Milan e Inter? Io penso assolutamente di sì, per due motivi. Prima di tutto, il Napoli è una squadra che si è rinforzata, perché è vero che è andato via Lavezzi, però ha preso Insigne, che sarà molto utile, ha altri giocatori come Berami, è una squadra solida, è una squadra che gioca già a memoria e non avrà il fastidio, tra virgolette, fastidio bellissimo della Champions League, mentre Milan e Inter hanno fatto un passo indietro, per cui se io devo pensare a una sfidante della Juventus, oggi 12 agosto dico Napoli, poi se succederà qualcosa sul mercato si possono rivedere. Certo. Certo. Altra polemica di oggi, Alberto, so che non è bellissimo sempre parlare di polemiche, però spesso ci sono e fanno parlare. Zeman dice: lunga squalifica, beh, sarebbe giusto non allenare. Naturalmente si riferisce a Conte. Ma io penso che Zeman sia un grande allenatore, e che però debba pensare a fare l'allenatore, debba pensare alla propria squadra. Mi sembra che queste punzecchiature costanti nei confronti della Juventus non gli facciano onore, e non capisco che cosa possa guadagnare Zeman facendo queste dichiarazioni, che attirano a lui e alla sua squadra, oggi la Roma, antipatie. E se cominciamo la stagione gettando fango con dei veleni, ripeto, facciamo il male di tutti e non soltanto in questo caso della Juventus, che può essere il bersaglio di Zeman. Siamo in diretta con Alberto Cerruti, prima firma della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il calcio. Qualche ascoltatore, 800240024, il nostro numero verde. Francesco da Roma. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per la trasmissione. Io volevo prendere due parole, sono in disaccordo su quello che è stato ieri l'esportazione del calcio, dell'immagine del calcio italiano, perché secondo me è stata davvero una gran bella partita. Davvero abbiamo dato lezione al mondo di calcio, di come si interpreta la finale, tre gol prima del quarto discutibile, voglio dire, prima che l'arbitro intervenisse eccessivamente con forse grossolani errori, però da qui a dire che partiamo male, che l'immagine è cattiva, io non lo credo, credo che due squadre si sono incontrate per sfidarsi correttamente, se la sono giocata a viso aperto ed è stata una bella gara, e che a rovinarla purtroppo sono stati elementi esterni rispetto ai calciatori, che sono coloro che interpretano il gioco, bensì arbitri che erano fuori forma, perché è indiscutibile che la prima ammonizione di Zuniga c'è stata per un fallo subito e non commesso, è stato provocato. Il rigore ci può anche stare, voglio dire, su un campo bagnato da 10 ore ci si può anche scivolare con controllo lungo, però espellere in una finale direttamente per una parolina e quant'altro, lei capisce. Io credo che invece prima dell'arbitro le squadre hanno esportato una grande immagine di sport e di calcio, sono vistazioni bellissime, e l'immagine cattiva è quella dell'arbitro. Per quanto riguarda poi il Napoli, non è la prima volta che una squadra non si presenta alla premiazione per quanto riguarda la Supercoppa italiana. Se è servito ad evitare ancora che gli animi si infiammassero di più, hanno fatto bene a non presentarsi, ed è bene che la Lega intervenga o quant'altro. Ecco, io intervengo più sul fatto che si dedica la vittoria ad un allenatore tra virgolette omertoso, che non ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che c'erano delle partite vendute. A me quello preoccupa, però l'immagine del calcio, io credo che sia stata una bella partita. Voi cosa ne pensate tecnicamente parlando? Poi io su questo sono assolutamente d'accordo con lei, come sono d'accordo con lei sul fatto che forse quell'espulsione di Pandev, magari qualche volta ci si può anche chiudere un orecchio, però bisogna capire effettivamente Pandev poi che cosa ha detto e che cosa ha fatto. Alberto? Ma lo abbiamo detto, abbiamo visto degli sprazzi di bel calcio, dei grandi giocatori, però l'immagine finale purtroppo è quella di una squadra che finisce in 9 senza il proprio allenatore Mazzarri espulso, di una squadra che non si presenta alla premiazione finale, e questa è un'immagine negativa non soltanto per il Napoli in particolare, ma per tutto il calcio italiano in generale. Io credo che ci voglia sempre rispetto nei confronti degli arbitri, nei confronti dei giudici, altrimenti non ci può essere sport. Abbiamo avuto quell'esempio meraviglioso di José Faid, che è arrivata quarta e ha detto può succedere, non sempre si può vincere, e credo che dare sempre la colpa all'arbitro sia sbagliato. Gli arbitri sbagliano, continueranno a sbagliare, ma abbiamo visto ieri tanti errori dei giocatori, errori di mira, errori di controllo. Allora cosa si deve fare ai giocatori che sono strapagati molto più degli arbitri, che sbagliano? Non è giusto, ripeto, sempre avere come bersaglio principale o unico l'arbitro. È un alibi che si fornisce ai giocatori, ai dirigenti e agli stessi tifosi. Assolutamente d'accordo con te, Alberto. Un sms che è arrivato 349-238-6666 fra gli altri, diciamo, perché il calcio deve essere l'unico sport in cui l'arbitro deve fare finta di non udire gli insulti, scrive Luca. Nel basket basta gesticolare animatamente per beccarsi un tecnico, e questo mi ha ripreso un po' per quello che ho detto prima, e ha perfettamente ragione Luca. Non voglio naturalmente dare nessuna giustificazione a chi non si comporta bene in campo. Tanti gli sms che sono arrivati invece sulla vicenda anche Zeman, fra l'altro uno scrive, ed effettivamente può essere anche vero, ma allora la squalifica a che cosa serve? Alberto, effettivamente, però se uno poi può sostanzialmente fare tutto quello che faceva prima tranne sedersi in panchina, c'è da chiedersi un po' ma perché si viene squalificati? Ma no, io credo che la squalifica serve innanzitutto come segnale importante, serve nei confronti di tutti, intendiamoci, non stiamo parlando di Conte in particolare, e poi serve perché tante volte abbiamo detto che un allenatore in panchina dà delle disposizioni immediate, chiama i giocatori, vede la partita in un certo modo, va negli spogliatoi. Quante volte abbiamo detto che un allenatore all'intervallo, la famosa frase, ha urlato, striglia la squadra, e quindi la presenza di un allenatore durante la partita serve come? E quindi la squalifica serve. Poi è chiaro che c'è il lavoro settimanale, però se tutti gli allenatori ci tengono ad andare in panchina e ad andare negli spogliatoi, un motivo ci sarà. Se la Juventus ha cercato di fare ricorso, se Conte si è arrabbiato, un motivo ci sarà. Ecco perché è comunque una squalifica che serve. Voglio aggiungere una piccola cosa al discorso di prima. Il nervosismo non ha riguardato soltanto i giocatori del Napoli, per essere sinceri, anche quelli della Juventus. Sì. Io ho visto delle scene pazzesche, delle occhiate, degli spintoni sullo 0-0 quando c'era tutta una partita da giocare. Ecco perché dico l'immagine del calcio italiano, e non mi sento di colpevolizzare il Napoli piuttosto che la Juventus. Abbiamo negli occhi il campionato europeo, le sceneggiate che abbiamo visto nei primi 20 minuti di ieri io non le ho mai viste in tutto il campionato europeo. C'era un altro fair play, un altro stile, un'altra correttezza. Noi invece siamo abituati a poter dire di tutto agli arbitri, a poterli insultare, accusare, e poi ci scandalizziamo se un giocatore viene espulso. Regolarmente dice: io non ho detto niente. Non ho mai visto un giocatore che ammette di avere insultato un arbitro, un assistente. Assolutamente d'accordo anche su questo, Alberto, sempre un piacere parlare con te. Una risposta telegrafica, perché siamo in ritardo con pubblicità e meteo, ma volevo chiederti un tuo commento su questo Brasile che ha una manifestazione dove mai riesce a vincere, e sono le Olimpiadi. Telegrafico: vince la squadra, non vincono i singoli. Ha vinto il Messico perché ha giocato con umiltà, hanno perso i presuntuosi che pensavano di essere più forti, perché il talento individuale non basta. Grazie Alberto Cerruti, prima firma della Gazzetta dello Sport su Radio 24. Grazie davvero Alberto. Audio. Buon lavoro naturalmente ad Alberto Cerruti. Siamo in ritardo, recuperiamo pubblicità, meteo e poi di nuovo con un grande campione olimpico. A tempo di sport. 800 24 00 24, il nostro numero verde, 349 238 6666. Andiamo subito a Londra, perché ancora è cambiato qualcosa nella finale fra Italia e Croazia per l'oro della pallanuoto. Dario Ricci. Sì, buon pomeriggio, ben ritrovati. È iniziato da appena un minuto il tempo, abbiamo trovato il pari con Ferruco, ma ora la Croazia ritorna in vantaggio sfruttando ancora una volta la superiorità numerica. Boskovic con un tiro di destro dai 5 metri tra Figgio e Tempesti. Il gol di Ferruco ha ridato il sorriso, perché a lungo il nostro attacco era stato in secca, tanto che i croati già 2 minuti e 5 secondi dalla fine del secondo periodo si erano portati in vantaggio con Baras, uno splendido tiro di destro sul palo più lontano della porta difesa da Tempesti. Poi Ferruco si era fatto carico di svegliare l'attacco azzurro, prima con due conclusioni che si erano spente sulla traversa della porta di Pavic, e poi con la rete del momentaneo tre pari. È arrivato però subito dopo, sull'attacco successivo, in virtù anche della superiorità numerica, il gol di Baras, e quindi Croazia avanti 4-3 a 6-32 dalla fine del terzo periodo. Azzurri ancora in avanti, ci prova ora Pioli, la parata di Pavic che sta diventando una delle colonne portanti della Croazia in questa sfida. Insuperabile anche il portiere croato, anche lui ha dato un contributo decisivo alla sterilità dell'attacco azzurro finora. Grazie Dario, sempre collegato con noi dalla piscina di Londra per questa finale dove è impegnata, ripeto, l'Italia con la Croazia per l'oro nella pallanuoto. Intanto arrivano le prime parole di Roberto Cammarelle riguardo alla medaglia d'argento, una medaglia d'argento molto contestata. Era finito 18 pari, era stato assegnato il punteggio con il britannico Joshua, e poi la vittoria a Joshua, malgrado Cammarelle avesse disputato un ottimo incontro, sembrava avanti lui dice: scusate, ma non basta. Molto amareggiato quindi il commento di Cammarelle ai microfoni di Sky dopo aver perso appunto la finale olimpica con Joshua. Sapevamo che i giudici erano abbastanza di parte, ha sottolineato, pensavo di averli convinti nelle prime due riprese, il verdetto di parità. E va bene, chiaramente non c'è più nulla da fare, rimane la mano in bocca per la bella prova di Cammarelle. Prima di andare, e con grande piacere, da Nicolò Campriani, che può vantare due medaglie al collo in queste Olimpiadi, torniamo da Dario Ricci. Ancora cambiato il risultato alla piscina di Londra? Sì, ancora cambiato e purtroppo ancora in peggio per noi, perché siamo sul 5-3 in virtù del tiro di rigore trasformato da Bošović, e quindi Croazia che allunga ora, c'è la traversa purtroppo colpita da Daniel Premus, che è il giocatore tra l'altro croato, che ha disputato nel 2004 le Olimpiadi proprio con la canottina della Croazia, che oggi invece veste la canottina azzurra. La traversa proprio la posizione di Cicroboa, Pavic salvato dalla traversa, e Croazia che ora può amministrare un doppio vantaggio 5-3 quando mancano 5 minuti e 5 secondi alla fine del terzo periodo, con i croati ancora in avanti. Claudio. Dario Ricci che ci aggiornerà ancora per quanto riguarda questa finale olimpica, ma noi siamo con una persona che ha vissuto le grandi emozioni e ci ha fatto vivere le grandi emozioni di non una ma ben due medaglie, una d'oro e una d'argento, e stiamo parlando di Nicolò Campriani, argento nella carabina 10 metri, oro invece nella carabina 53 posizioni. Nicolò, buongiorno e naturalmente grandi complimenti e congratulazioni da parte di noi di Radio 24, ma da parte di tutti coloro che amano lo sport in Italia. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. C'è una delle cose che era stata detta sia prima che dopo le medaglie, ma la vera sorpresa sarebbe stata se una medaglia non l'avesse vinta. E oddio, non è così facile, no? Poi quando si è lì a tirare per una medaglia ad una Olimpiade, pensare a questo. Beh sì, io arrivavo appunto a queste Olimpiadi da primo nel ranking mondiale in tutti e due gli eventi. Sì, questo non mi ha aiutato, perché appunto poi i pochi giorni prima delle Olimpiadi appunto era una gara a chi faceva la previsione più azzeccata, e ecco, un po' tutti, c'è chi mi dava due ori, chi un oro e un argento, però insomma un oro lo dovevo vincere, poi l'altro era tutto inteso. Ovviamente non è così, appunto la gara poi insomma si riparte tutti da zero, quel che è stato il passato è appunto il passato. E di fatti ci sono state poi tantissime sorprese, tantissimi outsider che non avevano mai vinto una medaglia e l'hanno vinta alle Olimpiadi. Poi da noi veramente il bersaglio è piccolino, insomma parliamo, e il centro è grosso, mezzo millimetro a 10 metri e 10 millimetri a 50. E da lì a fare un errore, insomma ci vuole niente, a volte anche un pizzico di fortuna o sfortuna può condizionare il risultato finale, certo, di classifica. 800 24 00 24, il nostro numero verde, 349 238 6666, i vostri messaggi SMS con Nicolò Campriani. Nicolò, una delle cose che un po' ha fatto parlare anche riguardo a te è che sei comunque un emigrato per sport. Sì, io sì, diciamo poi sono tornato. Sì, certo. Allora, sì, io sono partito 3 anni fa, nel 2009, perché appunto mi è stata offerta questa grandissima opportunità, ovvero una borsa di studio per studiare in America, nel college americano della West Virginia University, e la borsa di studio in pratica avrei studiato gratis. Che non è male, poi per le università degli Stati Uniti naturalmente. No, esatto, infatti quello che costa a semestre era una bellissima offerta, e avrei semplicemente dovuto tirare per quella è la squadra di tiro del college, perché appunto l'NCAA, che sono i campionati americani collegiali, che sono più famosi per il football e per il basket, coinvolgono in realtà anche molti sport, tra cui il tiro con la carabina, quindi bellissima opportunità per me, non ci ho pensato due volte, perché, insomma, purtroppo a Firenze già studiavo da 2 anni ingegneria e senza fare di tutta un'erba un fascia avevo trovato delle difficoltà, nel senso magari la settimana che c'era l'esame orale e tu eri fuori per una Coppa del Mondo, ecco, quello, insomma, non solo non ti spostava l'esame, ma dovevi magari rifare anche lo scritto. Insomma, stava iniziando tutto a diventare un po' troppo lento. E insomma, non credo neanche di essere stato uno studente tremendo, perché di fatti poi ho finito per laurearmi col massimo dei voti e la lode nell'università americana 6 mesi fa. Quindi complimenti, naturalmente complimenti anche per questo, in particolare non soltanto per le medaglie. Ma cos'è che spinge un ragazzo giovane invece di andare su un campo a giocare a calcio o a tirare a basket, e poi lì ne avrai viste fra l'altro negli Stati Uniti di queste cose, invece a prendersi una carabina, una pistola e tirare? Beh, non è facile, nel senso, io spero che le nostre medaglie ora di Londra hanno aiutato un po' a far conoscere il tiro a segno al popolo italiano. Purtroppo dobbiamo battere un muro di pregiudizi, perché insomma il fatto che la nostra attività sportiva, insomma, utilizziamo armi come carabine e pistole, la gente da fuori spesso si immagina di tutto di più, no? Ma questi saranno aggressivi, verrà fondai, no? I portaroli, no? Ovviamente non è così. Utilizziamo carabine e pistole come strumenti sportivi e niente di più, e come qualsiasi altro impianto sportivo le norme di sicurezza sono le prime ad essere rispettate. Poi i ragazzini cominciano a 10 anni con pistole e carabine d'aria compressa, quindi che sparano pallini di piombo, non munizioni vere, che però rimane fra l'altro un evento olimpico, la carabina a 10 metri d'aria compressa, e il viso, insomma, almeno quantomeno a venire a entrare in un poligono per rendersi conto un po' di quella che è l'atmosfera, insomma, scopriranno uno sport. Purtroppo, appunto, tanta gente neanche passa la porta di un poligono perché ha un'idea un po' distorta di quello che è. Però in vita mia io ho sempre fatto buchi a bersagli di carta, non ho manco sparato a una lucertola, mai andato a caccia. Mai andato a caccia, infatti. Mai andato a caccia e mai potrei, nel senso, ogni tanto vedi, no, la lucertola che viene sul tuo bersaglio nelle giornate di sole perché sta lì e te ti devi fermare perché non vuoi sparargli, vabbè, passa e poi continui il allenamento, quindi insomma è tutta un'altra storia. Stiamo parlando davvero di sport. Assolutamente, e proprio parlando di sport, che emozione si prova prima e dopo a tirare in una competizione così bella, così importante, anzi la competizione per qualsiasi sportivo, che sono le Olimpiadi? Beh, io venivo da Pechino, che era stata una lezione importantissima, avevo sbagliato proprio l'ultimo colpo e da terzo mi fece scivolare 12esimo. E ho lavorato tantissimo su quella che è la preparazione mentale, perché insomma qualsiasi sport ad alto livello c'è una percentuale, insomma, importantissima poi nella performance di testa, però nel tiro più che in qualsiasi altro sport diventa veramente determinante. E ho lavorato bene con questo psicologo dello sport americano mentre ero negli Stati Uniti, Ed Etzel, che a sua volta è stato campione olimpico di tiro nell'84 ed è professore di psicologia dello sport, e insomma con lui abbiamo utilizzato di tutto e di più, insomma da appunto visite, insomma chiacchierate su filosofie generali fino a tecniche più pratiche di respirazione, di ipnosi, autoipnosi, neurofeedback, il tutto appunto per arrivare all'Olimpiade e non arrivare appunto a dire questa è la gara, nel senso, certo, è la gara e te la giochi al massimo delle tue possibilità. Probabilmente la mia fortuna anche è che, nonostante tutte le previsioni, io non sono andato lì con le medaglie in testa. Io volevo fare il mio gesto tecnico per 60 volte e costruire il tutto un colpo alla volta. Poi alla fine si vedeva la classifica e ci credevo davvero, ecco, non è una frase a effetto che dico ora. E quella è stata la mia fortuna. Poi se qualcuno tirava meglio di me, nel senso, non era il vincitore, ma il mio scopo era quello di non avere impianti. E allora siamo con Nicolò Campriani. Nicolò, ti chiedo soltanto un minuto di pausa perché c'è il traffico e puoi immaginare che in questo periodo sia importante. Poi chiudiamo con te prima di tornare alla piscina olimpica e di leggere anche tanti sms che sono arrivati, naturalmente legati in particolare al calcio. 342-238-6666 il numero per i messaggi sms, 800-24-0024 il nostro numero verde. A fra pochissimo. A tempo di sport. 800-24-0024 il nostro numero verde, 349-238-6666 invece per i vostri sms. Con Nicolò Campriani, doppia medaglia alle Olimpiadi di Londra. È arrivato un tweet sul Twitter per ETA Tempo di Sport proprio riferito a Nicolò Campriani. Nicolò, chiedono: il vostro abbigliamento è quasi da motociclista, cosa serve? È bruttino, effettivamente. Non bellissimo, no, effettivamente non bellissimo. Su questo siamo abbastanza d'accordo. No, no. In pratica il materiale è canvas, e quella rigidità in più rispetto a un vestito normale serve, ad esempio, nella posizione in piedi a supportare la schiena, perché sennò uno rischia, soprattutto i ragazzi più piccoli, magari senza alcun sostegno, di farsi male. Quindi serve appunto per garantire questa sicurezza. E poi si tira anche sulle tre posizioni, ad esempio si possono vedere delle toppe di gomma sui gomiti, per quando tiri a terra, sul ginocchio per quando tiri in ginocchio. Purtroppo non è fantastica, ecco. Magari invito Armani se ci vuole mettere lui sì, beh, visto che ha vestito gli olimpici, certo, mi sembra giusto. E cosa dice Petra di questo abbigliamento? No, Petra, intanto per entrare un po' anche nel gossip, è la fidanzata di Nicolò, fra l'altro anche lei tiratrice, quindi non è che ci sono, non abbiamo solo Magnini Pellegrini fra gli sportivi innamorati. Nicolò? Con Petra sto insieme da 3 anni e insomma ovviamente lei è stata parte di questo mio successo, perché era con me a Londra, ha fatto lei una Olimpiade per lei d'esordio, una bellissima Olimpiade, 2 dodicesimi posti, e poi appunto mi è stata vicina in quella che per me era un momento comunque non facile, perché 7 giorni al villaggio sono lunghi, tra la prima e l'ultima gara che ho fatto, è importantissima. Anche lei studia ingegneria civile negli Stati Uniti, è venuta anche lei nella West Virginia University. Borsa di studio anche per lei o no? No, era solo un po' avvantaggiata perché era la tua fidanzata. Come? No, dicevo, una borsa di studio anche per lei, oppure era solo avvantaggiata perché era la tua fidanzata? No, lei è da prime 10 del ranking mondiale, sta andando veramente forte. No, ma naturalmente scherziamo. Lei qui che io a Pechino. Prima di andare avanti con te, un ascoltatore, 800-24-0024, Luca da Como. Sì, buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Senta, io volevo lasciarle rapidamente una considerazione e una proposta. La considerazione è che è anche un gesto di riconoscimento è a Josefa Idem. Adesso ho saputo che non sarà lei la nostra portabandiera per la cerimonia di chiusura, ma mi sarebbe piaciuto veramente molto vedere una donna eccezionale all'8ª Olimpiade rappresentare il nostro paese portando il tricolore. La seconda invece è una proposta. Io ho avuto modo di vedere il match di Cammarelle. Sì. Ecco, ammesso e concesso che l'inglese avesse vinto il terzo round con 2 punti di scarto, e sarebbe già stato un gesto importante, io penso che Cammarelle abbia meritato tutta la vita quell'oro, e la mia proposta è questa: io vorrei chiedere al CONI comunque di riconoscere a Cammarelle il premio come se avesse vinto la medaglia d'oro, perché se l'è meritato. Ecco, grazie per lo spazio che mi avete dato. Grazie a lei. Beh, buona continuazione. Grazie a lei. Beh, proposta sicuramente giusta e corretta. Non credo che Petrucci possa appoggiarla, però proposta assolutamente giusta e corretta, perché davvero il match era stato, possiamo dirlo, dominato da Cammarelle. Nicolò, tu sei riuscito a vedere il match fra Cammarelle e Joshua? Sì, io infatti sono qui adesso a fare lo spettatore davanti alla TV e ho visto il match. Sì, io non sono un esperto di box, però anche a me era sembrato che Cammarella aveva vinto. Purtroppo, insomma, in questo sono fortunato a fare lo step che faccio, perché sia se faccio un 10 e faccio un 8, io trovo il buco sul bersaglio e nessun altro lo deve giudicare. Quando sei così esperto, con tanto di giurie, ci può stare e te dai il massimo, però magari qualcuno in malafede ti leva quello che un po' ti sei meritato, penso anche solo 20 centesimi la cagnotta quarta, insomma quando lo perdi te di mezzo millimetro ti senti un po' sfortunato, però lo accetti. Quando è qualcun altro che insomma ci mette il voto è un po' più difficile, però devo dire nelle interviste dopo, ecco, un applauso a Cammarella perché ovviamente era deluso, però non ha reagito d'impulso, non ha fatto slogan, è stato veramente anche un esempio di sport. Non ha reagito come De Laurentiis ieri dopo la finale fra Juventus e Napoli. Parlando di calcio, chiudendo con te Nicolò, grazie naturalmente del tempo che ci hai dedicato, parlando di calcio sei un grande tifoso della Fiorentina che fra l'altro sta facendo una bella campagna acquisti. Sì, grande tifoso della Fiorentina e tra l'altro voglio ringraziare appunto Montella e la società stessa che mi ha invitato appunto alla partita, a quella di esordio. La prima di campionato non ci potrà essere perché sarò negli Stati Uniti, ma la seconda appunto ci sarò e scenderò in campo proprio prima della partita a salutare, ovviamente da tifoso della Fiorentina. È un sogno che si realizza e appunto voglio ringraziare la società per questo. Io credo che sia un onore per la Fiorentina averti allo stadio. Nicolò, futuro cosa farai adesso? Adesso c'è appunto, io mi sono laureato in ingegneria manageriale, farò un anno di master in ingegneria dello sport, stavolta in Inghilterra, mi avvicino un po', torno in Europa, master molto bello appunto, non solo di biomeccanica ma su studio di materiali nuovi, tutto appunto nei laboratori dell'Adidas. Una cosa interessante anche per un mio domani, ora insomma fino a Rio ci arrivo sicuramente facendo tiro a segno, però insomma dopo mi piacerebbe riuscire a combinare le due cose, no? La mia passione per lo sport e quella che è invece la mia passione per l'ingegneria in quanto fisica. E se questo insomma si può realizzare ovviamente sarebbe fantastico, però un passo alla volta, ecco. In bocca al lupo. Adesso altri tempi è abbastanza confuso. In bocca al lupo Nicolò, grazie del tempo che ci ha dedicato Nicolò Campriani, grazie davvero, in bocca al lupo Nicolò. Grazie mille a voi, ciao. Grazie. Intanto ci arriva un sms al 349-238-6666, dice: portate un po' di sfortuna, ogni volta che vi collegate con Londra va sempre male, e colleghiamoci con Londra allora perché è cambiato ancora il risultato. Dario Ricci. Forse solo colpa nostra, in realtà qua c'è una Croazia che fa meraviglie in acqua, 4 minuti e 6 secondi alla fine, 7-3 per i croati, pochi tanti fa, una manciata di secondi fa, il 7-3 siglato da Jokovic, c'è un insetto, un attacco azzurro che si blocca in questo istante con la rete di Giorgetti che ci porta sul 7-4, ma un'Italia che fa fatica a sfruttare l'uomo in più, in questa occasione c'è riuscita, mentre la Croazia è chirurgica nell'approfittare della superiorità numerica e in difesa Pavic, come abbiamo sottolineato più volte, arriva laddove i suoi compagni lasciano qualche barco. Vediamo se in questi 4 minuti riusciremo a fare questa rimonta che avrebbe del miracoloso per quanto si è visto. Sì, 4 minuti alla conclusione, naturalmente fra pochissimo torneremo da te, intanto un po' di sms al 349-238-6666, sempre legati al calcio. Zeman credo che abbia diritto di parlare, visto che a causa della dirigenza juventina è stato tenuto lontano dalle panchine che contano, dice Antonio. Poi sempre riferito alla finale di ieri, un comportamento inqualificabile, quello del Napoli fuori dalle coppe europee per 5 anni, ci scrive Daniela. Forse questo è eccessivo, però sicuramente non è stata bella l'immagine che è stata data e credo che da questo punto di vista anche la Lega e il presidente Beretta forse dovrebbero intervenire proprio per cambiare un po' gli animi, per modificare un po' quella che è non solo l'immagine esterna ma anche interna del calcio italiano. Abbiamo sentito anche qualche settimana fa i dirigenti di Sky dire attenzione, perché insomma non possiamo rischiare di rovinare una cosa così bella anche da mostrare come è il calcio. Ma torniamo ancora alla piscina olimpica, Dario. Niente da fare, la Croazia allunga nuovamente quando mancano 3 minuti e 14 secondi, stavolta è Sukno a trafiggere Tempesti, ancora una volta in superiorità numerica per l'espulsione temporanea di Gitto. Non riusciamo ad arginare l'attacco croato in questa particolare fase di gioco e al tempo stesso non riusciamo invece a trovare i varchi giusti in attacco, anche se adesso prova Peluga di costruire l'azione offensiva. Possiamo approfittare in questo caso sì di una non c'è nessuna superiorità numerica, sì superiorità numerica per l'esclusione di Buljubasic. Peluga prova a far girare il pallone, adesso è Gitto ancora il tiro di Gallo, il sinistro che va a battere sul montante, il pallone ritorna a Pavic e la Croazia può impostare. 2 minuti e 35 secondi alla fine, 8-4 per i croati. A questo punto il d'oro è davvero sempre più lontano ogni secondo che passa. Sempre più difficile, vi terremo aggiornati naturalmente nel nostro radiogiornale. Intanto notizia che arriva dall'Inghilterra, Manchester City di Mancini che ha vinto il derby con Di Matteo, ha ricominciato la stagione un po' come l'aveva conclusa vincendo 3-2 contro il Chelsea nel match per la Community Shield, ovvero la sfida tra la vincente Premier League e quella dell'FA Cup. Quindi primo grande successo ancora per Roberto Mancini in Inghilterra. Tempo di sport si chiude qui per gli aggiornamenti naturalmente riguardo alla finale fra poco nel radiogiornale. Grazie a Franco Piantanida in redazione, a Peter Bescapè in regia. Torniamo domani alle 14 per questa grande chiusura olimpica.